Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Allora, caro chef, oggi siamo in una delle regioni italiane che a me piacciono di più in assoluto, dico la verità. Cioè? Proprio, è una regione che mi è molto cara. Lazio. Non lo so, beh, no. Lazio ovviamente, cioè, certo, perché io ci sono nato, come direbbe Venditti, a Roma e quindi nel Lazio. E no, siamo parliamo in Puglia, di Puglia. Siamo in Puglia. Che credo, buongiorno a tutti, Credo buongiorno. Dal punto di vista chef enogastronomico sia, insomma, uno dei paradisi, una delle zone più interessanti, insomma, senza nulla togliere ad altre. No, no, devo dire anche per l'ospitalità che negli ultimi anni ha cominciato a dare alle varie strutture che si sono create, devo dire, grande qualità, come dici tu. Grande qualità. Sì, perché la Puglia negli ultimi anni è diventata un po' un nuovo Chiantyshire, so che la gente dice Chiantyshire, ma in realtà sarebbe Chiantyshire. Dillo, no? Come vuoi. È diventata un po' la nuova Toscana, con le masserie, con il recupero dei luoghi. La nuova Toscana, no? O la nuova Sardegna anche, sì. Voglio dire, tante opportunità per ospitare, e in più adesso c'è questa parte di enogastronomia che si è sviluppata alla grande, per cui grande qualità in tutti i sensi per questa nostra grande regione. E noi abbiamo un grande pugliese, il signor professor esimio Michele Mirabella, grande amico. Come stai, Michele? Buonasera a tutti. Come va? Come va? Michele, buongiorno. Sì, come va? Tutto buongiorno bene? A tutti, buonasera. Ma sì, buonasera, buonanotte. Qua alle 11.03 noi ci sentiamo. Io alle 11 mi sento già tipo alle 7 di sera. Michele, tu sei oltre che una persona deliziosa, una delle compagnie a tavola più divertenti che io abbia mai avuto il piacere di avere di fianco a me, sei proprio un mix, perché sei un buon gustaio, sei uno che adora la buona tavola, la cucina, ovviamente il vino, però che ha anche poi, anche per motivi professionali, sempre una grande attenzione all'aspetto, diciamo, medico, all'aspetto nutrizionale. Quello che piace a me, vuoi dire? Quello che piace a te. Diciamo, sei una congiunzione fra me e Oldani, insomma, il godimento pardiano e invece la saggezza oldaniana. E dirò una cosa in anteprima, che una delle ricette di oggi si chiamerà Sporca Musi. Baresi, sì, dedicata a Pier, poi ne parliamo. Sì, no, ma conosco, già ho dato. Allora, che partiamo dalla tua Madeleine, la cosa, se pensi alla tua infanzia a Bitonto, qual è la Madeleine mia è veramente, ne ho una collezione. Vai, facci sognare. Ma il ragù delle tre giornate che di tutto il territorio napoletano, ma non emulazione di quello napoletano, è sicuramente una Madeleine regale, perché era una favola, come dice giustamente il maestro Edoardo De Filippo, sabato, domenica, lunedì. Il sabato mamma diceva, si avvia il ragù, lo si avvia come un'impresa, capito? E allora nel tardo pomeriggio si avviava il ragù, mettendo l'olio d'oliva, naturalmente le braciole e la cipolla, quello che era. Si metteva a rosolare, dopodiché lo si lasciava lentissimamente e pazientemente rosolare fino a che il profumo non invadeva non la casa, il condominio, ma noi abitavamo in un regale palazzotto nobiliare, per cui il condominio era tutto di famiglia, era abitato da una media di 15 persone. Poi, dopodiché, si rosolava questa cosa e all'ultimo si metteva la conserva, attenzione, non la salsa, per favore. La conserva era bruno scuro, bruno rossastra, un colore magnifico per un pullover, ancora di più per una conserva di pomodoro, era praticamente super concentrato di pomodoro, scuro e leggermente tra l'acidulo e il dolciastro. Dopodiché questa conserva andava squagliata nell'acqua tiepida e messa come fosse sugo, e dopodiché si tappava, si lasciava uno spiraglio di aria tra tegame e coperchio, e la trave su cui poggiava doveva essere, per ragioni puramente coreografiche, scenografiche, per me il cucchiaio di legno. Va bene, ora questo profumo ci accompagnava fino al momento di andare a dormire. La mattina dopo alle 11, prima di andare a messa, mamma riavviava il ragù, perché la parola avviare era anche riavviare il ragù, e lo faceva cucinare tirandolo col vino rosso. Dopodiché, una maratona, ma pippiava, pippiava il ragù, vero? Il ragù deve pippiare, come dice lui, deve fare il fuoco lentissimo e deve borbottare, o pipiare a seconda della densità del sugo. Dopodiché si lasciava riposare. Questo di riposare il ragù per me era una questione arcadica, poetica, certo. L'idea che il ragù potesse riposare. E allora io istintivamente abbassavo la voce, mamma diceva, ma che stai facendo? Dico, no, si sta riposando. Non lo svegliamo sto ragù, eh? Attenzione che dopo pranzo veniva la vera festa del ragù, perché si mangiava, cioè noi mangiavamo molto tardi la domenica, anche alle 2 del pomeriggio, per cui quando si finiva intorno alle 4... c'era sempre un cognato che diceva, beh, io vado a poggiarmi. Certo. Il poggiarsi del cognato era una pennichella epica. Sì, sì, sì. A volte finiva alle 7 del pomeriggio, mancava se mettesse il pigiama. Io lo trovavo assolutamente sconsigliabile, ma mi faceva tenerezza, era meraviglioso. E io andavo a giocare e lui si era appoggiato. Quando si alzava si era già lavato i denti, quindi poteva dire... alla moglie, sta un caffè? Domanda retorica che volevo dire, portami immediatamente un caffè. Questa era Arcadia, amici miei. Posso dire che provo del priscio, si può dire? Il priscio è priscio. Oddio, adesso amico Fanelli, se mi sente, il priscio. Upriscio, cioè, felicità. Poi, naturalmente ci sono altre madrenche, gli spaghetti con le cime di rape. Io non amo molto le orecchiette, le amo come fatto folclorico, ma a me piace la pasta di grano duro, quindi... Mi sembra molto... Senti, le bracciole, perché dovete sapere che noi qui abbiamo Claudia Schiattone in regia, che è di vicino Taranto, no? Di un... Castellaneta. E lei, quando tu hai pronunciato la parola bracciole, c'ha avuto un momento di mancamento, di bracciole. C'ha avuto del priscio, no? È meravigliosa, la bracciola. La bracciola e quindi... la bracciola si poteva rosolare, però veniva inchiodata da uno stuzzicadenti o dal filo di cotone preso dalla macchina da cucire della nonna. Che più delle volte si mangiava, anche quando mia mamma faceva gli involtini col filo di cotone lì, era sempre un pezzo, andava giù. Succhiato, perché è un peccato perdere tutto quel prezioso sughetto. Questo era quanto, ragazzi. Michele, ma a questo punto... dimmi. Arriva da questa cucina molto, molto importante, molto gustosa, direi, insomma, da queste poi pennichelle alla fine. Ma poi quello che ha fatto dopo sul parlare di cucina sana, com'è avvenuto? Il cambio drastico oppure... Ma è stata... è una cucina sana, io stiamo scherzando. Ma certo, la più sana di tutte. Trova in Puglia una regale collocazione, ma stiamo scherzando. Perché no, io parlo anche di cotture lunghe, di, insomma, di mal... Sì, vabbè, tra virgolette... la cucina è un'arte, per eco culinaria sanciva la saggezza dei latini, insomma, intorno all'arte della cucina, era il collega Apicio che era un cuoco. È chiaro, c'è anche là, io faccio un famoso piatto suo, per cui l'ho ripreso, rialleggerito, però non potevo farlo come tanti anni fa, insomma. E poi c'è il pesce crudo. Poi un giorno vi intratterrò sui lampacioni. Lampacioni, io adoro. Adora essere cucito fritto nell'olio bollentissimo, dopo essere stato leggermente tagliuzzato e messo nell'acqua a stare come il carciofo alla giudia, e quando si frigge diventa una rosa che si muove nel tremulo sapore del lampacione fritto, si annega qualsiasi aperitivo. È fantastico il lampascione, perché quando ho bisogno di un qualcosa di amaro, perché ho dall'altra parte una cosa un po' più dolce, lo uso sempre. O semi di lino che sono amari, l'olio di semi di lino, oppure il lampascione che adoro veramente. Senti, ci aspetti 30 secondi e poi ti salutiamo, però ti vorrei un attimo salutare con un discorso importante legato alla tua attività negli anni, quanto è importante il monitorare le proprie condizioni fisiche, le analisi, la prevenzione, e poi una cosa sul pesce crudo, perché insomma Bari è la capitale del pesce. Mangia come parli. puntata dedicata alla Puglia. Fra poco avremo vongole e cozze fritte per cominciare il menù del maestro Oldani, ma intanto siamo con Michele Mirabella. Allora, io voglio chiederti due cose finali. Una, in tutti questi anni hai dato un grande contributo di divulgazione, di consapevolezza agli italiani su come prevenire i piccoli dolori, che poi magari delle volte non sono così piccoli, insomma l'importanza della prevenzione e l'importanza anche di una dieta mediterranea corretta. C'è qualcosa che ti senti dire dopo tutti questi anni che ti fa piacere sottolineare? Sì, il fatto che finalmente la cucina pugliese sia stata conosciuta e le sia stato riconosciuto il titolo di una delle migliori cucine del mondo, e quindi ovviamente una delle migliori cucine italiane. Come tutte le altre cucine regionali italiane, è tra le migliori del mondo, ma noi abbiamo un privilegio, è una cucina salutare perché è magra, con pochissimi grassi, ricchissima di verdure e soprattutto regalmente arruolata nei vari piatti sotto varie forme dall'olio d'oliva verde extravergine, la più straordinaria invenzione di madre natura, che fa molto bene, vero? Molto bene, ed è una straordinaria, e soprattutto non ha le controindicazioni dei grassi, degli altri grassi animali, del grassi animale, animali, e anche gli altri oli che non siano d'oliva. E una cosa finale te la chiedo sul pesce crudo, perché insomma voi... Io il pesce crudo non lo mangio perché non mi piace, però so che una sontuosa imbandigione, quando si avventano sul crudo, non dicono manco pesci, dicono il crudo. Grazie a Michele Mirabella. Grazie, ci Michele. Hai fatto sognare con i tre giorni del ragù. Forse è anche caduto Michele Mirabella, ma comunque va bene, insomma, cioè, quello che dovevamo dirci ce lo siamo fatto. Io starei le ore a parlare con Michele, perché è veramente una di quelle persone proprio di cultura. Perché ci sono le persone di cultura e poi ci sono le persone di cultura che hanno anche questa straordinaria capacità, che non ti fanno pesare la loro cultura, no? Hanno una leggerezza anche nel raccontare le due ricette. Questa parte poetica ti fa venire voglia ancora più di avvicinarti al cibo. E a proposito di poesia, vongole e cozze fritte, prego. Qua è semplice, vada, secondo me la potresti dire anche tu, sì. No? Io direi, allora, le cozze e le vongole possono essere aperte in due modi, cioè uno è quello classico con una parte di olio nella pentola, poi magari un goccio di vino bianco che fai ridurre, metti le vongole e le cozze separate, copri col vapore, si aprono, per cui poi recuperi il sugo di cottura, togli il guscio e tieni le vongole e le cozze separate, il muscolo dalla conchiglia. L'altro metodo, che è quello un po' più tecnico, un po' più tecnologico e secondo me è più efficiente, è quello di farla a vapore. A vapore, un forno a vapore naturalmente serve, o una vaporiera classica, si appoggiano sopra e si lasciano aprire a 100 gradi appena il vapore prende la sua consistenza, per cui poi aperte vengono asciugati i muscoli su un foglio di carta, ben asciugati, rimangono comunque teneri, vanno passati nell'uovo e nel pane, e il fatto di passarli nel pane permette che nella frittura, io utilizzo sempre un olio di semi di arachide a una temperatura di 155-160 gradi al massimo, vengono fatti dorare, scolati per bene, rimane questa parte molto consistente, croccante all'esterno e molto tenera all'interno del muscolo, e poi servito, quando tu sai, Pier, siamo oramai abituati, se mettiamo un prodotto fritto, per alleggerire un po' utilizziamo o una parte acida dettata dal fatto che si utilizzi un agrume, o una parte acida dettata dal fatto che si utilizzi un aceto. Allora, in questo caso è possibile utilizzare un aceto, ma non in maniera tradizionale, cioè versandolo sopra, ma con uno spruzzino. Andiamo un po' più nella tecnica della nuova cucina, sì. Per cui se si prendesse uno spargiacqua, uno spruzzino, mettiamo il nostro aceto, che può essere di vino bianco, di Lampone, di Serres, di aceto balsamico, un tradizionale buono, possiamo spruzzare sopra le nostre vongole e cozze fritte e magari abbinarle a qualche fogliolina di sedano bianco, anche lei fritta, per dare un po' più un profumo di fresco, anche di fruttato, per cui questa spruzzata di aceto ci permetterà anzitutto di apprezzare di più il fritto, perché è sicuramente una cosa un po' più grassa, dando il contrasto con l'acidità. Senti, quindi, perché l'impanatura è così importante, perché è così cruciale? Ma perché in un piatto del genere c'è la vongola, il mitile e la cozza, la vongola e la cozza, che sono hanno un contenuto d'acqua però ridotto, per cui questa patina che si fa sopra con il pane e lo stesso uovo ci permette di mantenerle umide all'interno, non perdono acqua, per cui il pane non diventa molle e riusciamo a mangiare una cosa molto gradevole, del morbido e il croccante, sai, contrasti che a me piacciono. E poi io ricordo sempre il tuo invito, il tuo appello, quando poi facciamo per esempio la pasta con le vongole o con le cozze, a togliere il guscio, no? No, beh, quello io direi che fa parte di un nuovo approccio, di un nuovo modo di stare a tavola, per cui è un po' più di lavoro per il cuoco e un po' più di apprezzamento poi per chi mangia, perché alla fine sporcarsi non credo piaccia più a molte persone, per cui il fatto di avere tutto pulito, tutto sistemato e poter gustare in maniera corretta, sono d'accordo. Poi magari gusci li usi per fare un po' di decorazione in altre parti, ma poi è un lavoro veramente di pochi secondi, insomma, perché non poi è... nella cucina moderna io ci tengo a precisare che quella famosa parola che c'era nella cucina di tanti anni fa, cioè usa questo per decorare, sì, non, secondo me è da abolire proprio. Cioè la decorazione non ci deve essere nella cucina, deve essere una sorta di decorazione naturale, per cui il colore della stagione, il prodotto che c'è nel piatto deve essere commestibile. Ogni cosa che mette il piatto secondo me deve essere commestibile, per cui la parte decorazione non la abolirei, e poi soprattutto facilità nel mangiare. Bene, bene, mi sembra molto molto interessante tutto questo. Fiammetta Fadda, come stai? Ma benissimo, in questa giornata, in questa mattinata di gennaio, molto in forma sono. Bene, ciao, siamo pronta per un 2020 molto carico. Prima devo dire che a microfoni spenti Oldani insisteva sul fatto di essere un po' detox in questo gennaio. Ma dobbiamo essere veramente così detox? Oppure tu mi autorizzi tutto sommato a chiudere in qualche minuto il mio periodo detox e a riconcentrarmi sul pranzo di oggi, ad esempio? Senti, innanzitutto secondo me se uno ha osservato delle regole non solo di buon senso ma anche di sapori e di alternanze, non c'è bisogno di detox perché non si è abbuffato prima, quindi non c'è bisogno di questo periodo di un po' penitenziale, quindi non ce n'è bisogno. Io non mi concentrerei su quello, mi concentrerei sulla attesa quanto prima del cambiamento della stagione e sui magnifici ingredienti invernali. Mi sembra importante. Fiammetta, cosa ci dici? Una parola sulla Puglia. Oggi trattiamo la Puglia perché ogni puntata abbiamo una regione diversa. Cosa ti colpisce tra ospitalità, cibi, prodotti, cuochi della Puglia in questo momento particolare? Beh, allora, diciamo che la cucina pugliese è una cucina molto semplice, una cucina di grandissimi ingredienti. Quindi quello che colpisce in queste ricette è la meraviglia degli ingredienti, i quali non vanno alterati ma vanno mantenuti nel loro colore, nella loro consistenza e nel loro sapore il più possibile, uniti alle erbe magnifiche che ci sono in Puglia. Questo è, diciamo, il punto chiave della cucina. Quindi ci sono degli ottimi ingredienti, poi sia di mare sia di terra, perché voglio dire, ci sono due mari da una parte, quindi... No, ma poi soprattutto, com'è la frase, Claudia, guardami dal vetro, com'è la frase? La Puglia è lunga, no? Questa frase che ogni tanto la Puglia è lunga, è tutta bella, dice Zalone, ma al di là di Checco che salutiamo, la Puglia è lunga, veramente, cioè percorrerla tutta da Leuca fino al nord della provincia di Foggia sono quattro ore e mezza di macchina, quindi è veramente un universo di sapori, di ricchezze, anche dal punto di vista del paesaggio, insomma, possono cambiare molto le cose. Per esempio la cucina salentina è una cucina soprattutto di terra, non che non ci sia il pesce buono da quelle parti, però è una cucina molto più legata all'orto, no? Alle prelibatezze che ci sono da questo punto di vista. Sì, poi arrivi a Taranto e allora ci sono tutti i frutti di mare possibili, esatto, e immaginabili, selvatici anche e non. Ma tu mi chiedevi prima com'è il feeling della Puglia, e allora io ti dico che per esempio per chi si muove dal nord, da Milano, c'è questo senso magnifico del la vocazione alla gentilezza e all'accudimento delle persone. Questa è una cosa che riporta quasi un po' verso la gentilezza orientale. Tu ti senti circondato da degli affetti. Senti, Fiammetta, in quanto a vice delegato dell'Accademia Italiana della Cucina, dove sta andando adesso la cucina italiana in toto? La cucina italiana sta andando... vogliamo noi italiani adesso dalla cucina italiana? Beh, noi vogliamo certamente la caratteristica dei cibi delle varie regioni, perché poi ogni campanile e addirittura direi ogni casa in una zona, in un paese, ha la sua piccola versione modificata dalle donne di casa di quel piatto tipico. Faccio per dire, se parli della minestra maritata piuttosto che della tiella di riso, patate e cozze, addirittura litigano se bisogna dire prima patate o prima riso. Vero. Quindi questo è fondamentale e molto divertente. Poi devo dire però che c'è una deriva, secondo me, di fusion globale, perché molto spesso anche nelle cucine noi troviamo nei giovani cuochi che ci sono, per esempio, un pugliese che ha una fidanzata che lavora con lui in cucina, o comunque una persona della brigata che è giapponese, che è cinese, certo, che è messicana. Quindi ne nasce una fusion che non è più importata, ma è naturale. E questo, bello, mi sembra una cosa entusiasmante. Bellissima, sembra, riflessione. Condivido questa altra idea, altra identità della fusion. Grazie Fiammetta. Ci sentiamo presto. Grazie. Adesso però rimane, grazie, perché adesso saranno i caparroni, zucca e riso. Io ho già fame. Caparroni, zucca e riso, fra poco. Ci sono 6 milioni e mezzo di persone che in Italia spontaneamente offrono aiuto agli altri. Le loro voci sono spesso lontane dalla ribalta, ma ben sentite da chi chiede aiuto. C'è Gianni, medico in pensione, che cura i senza fissa dimora. Anita, che ogni domenica indossa il naso rosso da clown e va in ospedale per far ridere i bambini. Luigi, che a 18 anni è entrato in carcere per far teatro coi detenuti. Said, che ha scelto di aiutare i rifugiati che arrivano in Italia. Sono Cristina Carpinelli. Ogni domenica alle 14.30 in Diario di un giorno vi racconterò le storie di chi sceglie di tendere la mano, cambiando così il corso delle cose. Storie di generosità e meraviglia, di possibilità e speranza. Naturalmente su Radio 24. Mangia come parli. Oh, fra poco vedo anche che hai messo i cardoncelli. Sai che io adoro i cardoncelli. I cardoncelli mi ricordano un... Conosci? Buonissimi, ma poi si è ormai fissata e quindi li cerca sempre, perché sono buoni i cardoncelli. Un po' di moda, però devo dire anche molto buoni. Un po' di moda il cardoncello? Il cardoncello gli ultimi 2 anni. Viva i cardoncelli, ma intanto caparroni, zucca e riso. Che roba è il caparrone? Caparrone è un mollusco, è una conchiglia, bravo, particolare, che io naturalmente apro al vapore. Per cui faccio una cottura veloce a vapore, tolgo il muscolo dalla conchiglia, lo tengo da parte, lo privo anche dell'intestino. Cosa faccio? Poi preparo circa 100 grammi di dadi di zucca, belli, precisi, perfetti. Li faccio arrostire per un paio di minuti in una padella con un goccio di olio. In un'altra pentola invece faccio sciogliere altri 20 grammi di burro, aggiungo dei piccoli ritagli di zucca, tipo 50 grammi, che andranno a spappolarsi poi tutti nel riso. Aggiungo il riso crudo, un Carnaroli stagionato, lo faccio tostare per bene, comincio a bagnare con un vino, un rosato, naturalmente perché siamo in Puglia, faccio ridurre totalmente il vino e quindi comincio a bagnare con un po' di acqua il nostro riso con, a questo punto, la zucca. Termino la cottura, lo levo dal fuoco e comincio naturalmente la parte di mantecatura. Anzi, scusami, 5 minuti prima di levare il riso aggiungo i caparroni che abbiamo pulito, tolgo dal fuoco, comincio a mantecare con un po' di olio d'oliva e io direi a questo punto possiamo utilizzare una scamorza che si è tagliata in ultimo, fuori dal fuoco, in maniera molto molto sottile. aggiungiamo, come mio solito nei risi, siccome c'è una parte basica, aggiungiamo più o meno mezzo decilitro di aceto di vino bianco. Una volta mantecato, distribuisco questo riso, questa tiela di riso con caparroni e zucca in una, appunto, in una terrina, e la servo in mezzo, senti, mezzo se al tavolo per la condivisione. Se volessimo cambiare riso, che alternativa abbiamo? Ma un'alternativa potrebbe essere una cottura che è un po' più del sud, che è il metodo Pila, con un parboile, sì, quindi sì, un riso un po' che rimane alla fine un po' più sgranato. Un po' più fresca, no? Un po' più, no, rimane più fresca, sgranato, meno mantecata. Esatto, non hai bisogno. Io qui ho azzardato molto perché ho messo una parte di scamorza, pochi grammi a persona, però l'ho abbinata a un mollusco. Per cui o c'è un bilanciamento corretto ed è buono, se no si rischia di avere. Perché la mantecatura, però la mantecatura lo trasforma quasi in un piatto invernale, è quasi, no, più gli nord. No, gli dà secondo me un po' più di gusto se viene fatta la mantecatura fuori dal fuoco, certo, dove il formaggio si scioglie appena appena, non strappa, dove c'è il criterio giusto della mantecatura. Altrimenti, se, insomma, al sud a me piace molto avere anche un riso sgranato, però ci deve essere una base di quello che tu ami molto, certo, che è un soffritto, magari, certo, metterei un po' più di zucca nel soffritto, un po' più di cipolla se vuoi. Anch'io! E poi il nostro riso parboile. Ma chiaro! C'è Franco Ordine, ragazzi, incredibile. Pensavo stesse male, ragazzi, pensavo stesse male, Pia, non capivo. Ma chiaro! Possiamo dire che Mangia Come Parli è un po' il punto d'arrivo della tua straordinaria comunque carriera, no? Essere qui, sì, a parlarci. Franco, buongiorno, sono Davide, buongiorno. Davide, come stai? Bene, tu? Io ricordo ancora con grande orgoglio la serata che ho vissuto lì da te insieme con i miei amici, devo dire che e ti è aspetto stata ancora. Serata, una di quelle serate poi da raccontare davanti al caminetto con questo freddo che c'è qui a Milano. Non so, Franco, tu qual è il tuo piatto del cuore? Magari un piatto foggiano? Sì, guarda, allora io diciamo sono cresciuto, la mia droga, diciamola chiaramente, sono state troccoli con la ricotta dura e braciole. Io quando penso alla mia infanzia, quando penso alla cucina di mia madre che avvolgeva le braciole con il filo di cotone col quale usava rammendare le camicie piuttosto che i miei pantaloni strappati in mezzo alla strada giocando a pallone, bene, mi vengono un po', mi viene la commozione, mi commuovo e mi vengono quasi le lacrime. Devo dire che questo vale per tutti, questo credo sia un elemento che vale a tutte le latitudini. Non so dirti se negli altri paesi, ho vissuto in Inghilterra per esempio per Erasmus, no, ma se per esempio nei paesi nordici ci sia un legame così stretto e così profondo con la cucina e il rapporto fra madri e figli, non lo so. Secondo penso me che da noi ci sia una cultura del cucinare, del tramandarsi le ricette, del darsi consigli, ma un piacere del cibo diverso, Pier, ma sai perché? Perché nella cultura e diciamo anche nelle tradizioni dei popoli del sud, la cucina, soprattutto per le famiglie come la mia, per esempio, che aveva attraversato la fame della Seconda Guerra Mondiale, il cibo equivaleva al regalo, alla ricchezza, alla possibilità di fare, di creare gioia a tavola. Mia madre, tanto per fare un esempio ancora delle abitudini familiari, da noi il pranzo vero e proprio era quello delle ore 13, 13:30, mentre invece la sera era, diciamo, una cena molto frugale. Mia mamma non preparava nessuna cena la sera perché lei era di un'abilità stratosferica nel rimediare con tutti gli avanzi del pranzo delle ore 13 e ti preparava dei piatti per la sera che erano ancora più buoni. Io non posso non dimenticare per esempio un'altra abitudine, non so se Davide ne ha mai sentito parlare. Mio papà usava mettere sotto lo strato di maccheroni della domenica ricoperti del ragù, il famoso ragù nel quale la forchetta si deve piantare dritta e non deve barcollare, metteva la ricotta. È un'altra cosa di cui si è persa completamente traccia. Certo. Farò una ricetta io con una frittata di ricotta e cardoncello dedicata a Salento. Assolutamente. Ah, che grande. Poi elencherò questa. Ma devo dire che anche... ce la andiamo a mangiare, ordine. Sì, non ce la facciamo mica sfuggire. Andiamo, senz'altro. A chiaro. Fin da ora. A chiaro. Ciao, ciao amico mio, grazie. Ciao Franco, grazie. Un abbraccio Davide, in bocca al lupo. Ciao, crepi il lupo. Una particolare a... al mio amico Pierluigi Parto. Ah, bello che sei. Salutami tutta Foggia, tutta Foggia, tutta Foggia, tutta. Andiamo con lo Fazio News. Vai, vai, qualità, qualità. Allora, a proposito, vabbè, ci siamo un po' emozionati, no, su, sul cibo. Una delle cose che emozionano di più gli italiani è la pummarola, è il pomodoro. La reputazione delle conserve di pomodoro, secondo gli ultimi studi, è molto forte, pari al 78,3% su 100, quindi è un livello altissimo, secondo questo studio commissionato da Anicav al Reputation Institute. C'è però, fra le varie associazioni che sono legate a questo prodotto, che è ovviamente, e non è una sorpresa, uno dei prodotti del cuore per gli italiani, anche un lato oscuro, che è quello legato al caporalato, e quindi insomma una consapevolezza del fatto che poi spesso questo prodotto meraviglioso si mischia con cose, diciamo, meno nobili. Napoli è la città del dolce in Italia, ma va, mi verrebbe da dire, però insomma arriva una conferma, è prima per il numero di imprese, ci sono 2427 aziende dolciarie, è sul podio assieme a Roma e Milano, però insomma considerando il fatto che siamo, diciamo, golosi, Pier, siamo golosi, molto golosi. A Napoli c'è una tradizione pazzesca, 2427 le aziende di Napoli, batte anche Roma e Milano. Soprattutto la cosa molto l'avvento... positiva è che sono tutte in crescita a Napoli, l'avvento del più panettone 7-7. Perché a Napoli tu sai che fanno grandi panettoni, cose che fino a un po' di anni fa insomma sì non si parlava. Allora ti do altri due numeri interessanti: 40.483 sono le aziende di prodotti da forno con 167.000 addetti, quindi facendo un calcolo veloce una media di 4 persone, quindi sono delle micro imprese ovviamente, e però insomma danno tanto lavoro e fra l'altro sono cresciute del 9% in 5 anni, a dimostrazione del fatto che i dolci vanno alla grande, che il settore insomma tira. Mangiamo meno se l'etichetta dei cibi riporta uno sforzo per bruciarli, è una cosa interessante. L'università di Loughborough in Inghilterra ha fatto questa analisi. Si possono ingerire potenzialmente fino a 200 calorie in meno al giorno se sopra l'etichetta dei prodotti alimentari è riportato quanto movimento è necessario per bruciare un certo cibo, che è un po' quello che vorrei anch'io, fanno, no? Ti cioè vorrei allontanare. Sulla scala dei biscotti mi dice devi fare due set a paddle di almeno 8 game all'uno. Non proprio set a paddle, però qualcuno dà già questa informazione che è interessante, insomma, è interessante perché ti lascia pensare, poi è ovvio che alcuni piaceri uno se li deve godere, però anche la consapevolezza del fatto che se sai ingerisce... Sai che io sono d'accordo, eh. No, sono d'accordo, non avevo dubbi su questo. La campagna Segnali d'Italia Milano Bella Dentro è una campagna della quale invece ci parla Camilla Archi. Ciao Camilla. Camilla, ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che cos'è? Che cos'è questo Bella Dentro? Che cos'è? Allora, Bella Dentro è di fatto una startup, ma prima ancora di una startup è stata un'idea da incoscienti mia e di Luca, mio compagno e socio, che 2 anni fa ci siamo licenziati per dar vita a questo progetto. Ed è un progetto che si occupa di combattere gli sprechi alimentari, nella fattispecie gli sprechi ortofrutticoli. Cioè tutti quegli sprechi che avvengono proprio nella primissima fase della filiera, cioè quando il frutto o l'ortaggio vengono staccati dalla pianta. Perché non sono tutti uguali, giusto? Esattamente, perché sono, come diciamo noi, belli dentro, quindi magari esteticamente sono imperfetti perché hanno un difetto sulla buccia, un difetto di colorazione, una forma strana, o anche semplicemente perché sono troppo grandi o troppo piccoli e quindi non hanno sbocco sul mercato della grande distribuzione, ma rimangono ovviamente buonissimi. Ad oggi tutti questi prodotti vedono. E voi cosa fate con questi prodotti? Esatto, noi li compriamo, non facciamo niente di rivoluzionario, noi di fatto andiamo dagli agricoltori che oggi appunto sono costretti a sprecarli, avendo anche ovviamente un grande danno economico. Noi andiamo da loro e diciamo: guarda, tutta questa merce te la compriamo noi, scegli tu un prezzo, che questa sia una cosa un po' rivoluzionaria nel mondo dell'agricoltura in Italia, loro ci fanno un prezzo e noi la rivendiamo in giro per Milano. Ma come la rivendete? Bancarelle, nei supermercati? Come fate? Nel modo meno sobrio possibile, quindi abbiamo allestito una Pecar che è interamente ricoperta di prato finto, con la quale siamo andati in giro per Milano per 1 anno e mezzo facendo varie tappe in varie zone della città. rivendendo appunto questa frutta e verdura così com'è, semplicemente, senza nasconderla o camuffarla. Ed è una campagna questa, il progetto Segnale d'Italia con IGP Deco, che insomma mi sembra molto interessante, perché è la prima campagna multisoggetto e multiformato che riesce a dare risalto alle persone, ai mestieri, ai luoghi che meritano di essere scoperti, valorizzati e che lavorano, dobbiamo dire, tra periferia e centro. Insomma, da questo punto di vista tutte le città, tutte le parti della città sono assolutamente rappresentate. 11 storie individuate da GP Deco per raccontare realtà poco conosciute, e fra queste appunto quella di Bella Dentro. Bravi, bravi Bella Dentro, Bella Dentro. Grazie a Camilla, complimenti a lei e a Luca, e adesso ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo, ricetta, perché abbiamo ancora due ricette, la Soldani, altre sorprese, anche Cardoncelli arrivano, già li vedo sulla porta. Cardoncello, buonasera, si accomodi. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... Che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, frittata di ricotta nel Salento e cardoncelli, vai. Qua, allora, molto semplice. Io vorrei spiegare questa ricetta per dare un'idea di come si possa fare una frittata soufflé, una frittata molto tenera. E anche lì andiamo su un tema che sono le padelle, una piccola padella di 15 centimetri, possibilmente in ferro, come le vecchie padelle, utilizzando una fiamma sotto del fuoco, del gas. Farei scaldare appena appena un po' di burro, aggiungerei i nostri cardoncelli che abbiamo tagliato a piccoli pezzi, facciamo arrostire per un paio di minuti al massimo, li saliamo leggermente. E a parte avremo sbattuto due uova per persona da 60 grammi l'uno, con un goccio di latte, un po' di noce moscata, del pizzico di sale e poco pepe. Possiamo aggiungere anche un decilitro di latte, per cui sbattiamo per bene, aggiungiamo altri 20 grammi di grana, sbattiamo ancora una volta, dopodiché nei nostri quattro padellini da 15 centimetri di diametro con la nostra noce di burro, dividiamo questo impasto di uova. Appena prende calore, quindi comincia a formarsi la parte sotto della frittata, mettiamo un forno preriscaldato a 220 gradi, ascoltate bene, 220 gradi, mettiamo questi nostri padellini, li lasciamo per 8 minuti, in maniera tale che si possano gonfiare per bene, per cui quando si levano, avendo fatto già una pre-ricettatura, vale a dire scaldato il padellino col burro, per cui c'è un calore uniforme, ci daranno appunto la possibilità di girare la frittata e avere una sorta di soufflé. A questa frittata farei trovare già nel piatto, prima di girare la frittata, un po' di ricotta, 200 grammi più o meno di ricotta frullata in maniera tale che rimanga cremosa, aggiungerei un pizzico di sale, un po' di pepe e poi dell'erba cipollina tagliata con una forbice, proprio perché non deve essere strappata ma deve essere tagliata fine fine per dare quel profumo leggero di erba cipollina, e servirei questa ricotta mantecata con la nostra frittata. Senti, molto soffice, ecco, mi sembra fondamentale perché la frittata sia soffice, quasi come un soufflé, la cottura, che cos'è che su cui bisogna stare molto attenti? No, è molto attenti, come dicevo, il preriscaldamento del forno, dicevo appunto 220 gradi preriscaldato, e poi che la padella dove mettiamo il nostro apparel di uova, formaggio, come ho detto, e latte, eccetera, sia ben sbattuto. Una volta messo in questo padellino caldo, vedrete che soffriggerà un po' e poi subito in forno. ed è la fonte di calore del forno che permette di alzarsi come se fosse un normale soufflé. Meraviglia! Antonella Ricci, chef del ristorante stellato al fornello da Ricci, giustamente, di Ceglie Messapica. Come va? Ciao Antonella! Buonasera, ciao! Oh, ciao, già mi mette allegria questa voce squillante! Benissimo, sono terminate le feste, adesso dai, ci rimettiamo su di nuovo, in pista. Esatto, questo 2020 che cosa ci porterà? Che cosa... Speriamo tanto lavoro, tanta serenità. Ci dici due o tre cavalli di battaglia vostri? Beh, comunque io nasco nel ristorante che si chiama Al Fornello da Ricci, quindi il fornello a carbone vegetale con spiedo verticale, e quindi tutto quello invece che si può cuocere sotto la cenere del fornello, quindi tutti gli ortaggi a pezzatura grossa, le melanzane, le patate, le zucchine, e noi facciamo una coscia di agnello cotta a bassa temperatura nel fornello, che viene una meraviglia, perché esternamente si fa una bellissima crosticina e all'interno invece rimangono tutti quanti i succhi dell'agnello. È buonissima, e quindi lo serviamo questo piatto meraviglioso, sontuoso, che il mitico Veronelli diede il sole di Veronelli a questo bellissimo piatto. Senti, qui noi parliamo tantissimo di materie prime, adesso tu hai parlato di melanzane, di peperoni, cioè qui c'è proprio una ricchezza, no? Voi avete nella vostra zona una ricchezza, una genuinità che cambia i sapori, cambia un po' tutto, no? Sì, il nostro posto veramente è una miniera a cielo aperto, però bisogna riconoscere veramente i produttori bravi, quelli che ancora fanno le cose con, diciamo, con criterio e con genuinità, e che veramente di cui ti ci puoi fidare veramente. Quindi cerchiamo di proporre agli avventori, ai nostri clienti, il meglio che può dare il mercato, sia a livello stagionale sia a livello proprio di qualità di prodotto. Antonella, come condividi con tuo marito la cucina nuova pugliese? C'è qualche influenza del suo territorio? C'è qualcosa che lui invece va a ricercare nel nostro, cioè nel tuo territorio pugliese? Sì, Davide, tu conosci benissimo Vinod. Sì, Vinod ha portato sicuramente tantissima tecnica, perché comunque lui viene da una scuola di cucina francese, quindi ha portato tantissima tecnica, e poi abbinato a tutti i prodotti nostri locali, tutte quelle cose veramente stagionali che hanno una brevissima stagionalità, e poi ti devo essere sincera, il profumo delle spezie, perché comunque Vinod arriva da questo posto meraviglioso che sono le isole Mauritius, dove veramente le spezie vengono usate in maniera veramente eccellente. Tu, tra l'altro, hai studiato alla scuola di Lione, no? Di Bocuse. Sì. Io sono stata alla scuola di Bocuse in Francia, sì, ho avuto questa bellissima esperienza di vita, dico io, perché dopo aver terminato i miei studi ho capito che veramente volevo fare la cuoca ad un certo livello. Infatti mio padre mi disse: se vuoi fare la cuoca, la differenza fra tua nonna e tua mamma è sicuramente lo studio, quindi devi studiare, mi disse mio padre, e questa è stata veramente la cosa che mi ha aperto la mente. Trionfo, complimenti, lei quando va alle Mauritius poi fa delle cose meravigliose. Nascono solo cose meravigliose. Grazie Antonella. Dottoressa, grazie ad Antonella Ricci. Adesso gli SOS Oldani, vai. SOS Oldani. Simone da Verbania, che è un po' tipo Foggia Nord, Verbania. Salve chef, ma come faccio a riconoscere l'umami in un cibo? In particolare, come lo distingo dal salato? Questo è l'unico modo, è farlo assaggiando un qualcosa di cui non si recepisce bene il gusto. Allora si può aggrappare all'umami, per cui è un concetto ancora un po' astratto rispetto a quello che sono i gusti normali della cucina. Francesco da Vimercate. Ciao chef, ma è vero che i funghi non si lavano con l'acqua? E perché? E come dovrei pulirli dalla terra? Grazie. No, beh, è vero relativamente, perché dalla terra si puliscono con un coltellino molto affilato, si toglie la parte di terra e appunto un primo strato della pellicina che c'è al fungo, parliamo di porcini, e poi magari non immergerli nell'acqua, però uno straccetto umido bagnato per pulire bene tutti i rimasugli di terra è anche, insomma, è possibile farlo. Non si conservano tanto il fungo, come dico, con tanti prodotti di qualità e materia prima fresca, è bene comprarli e utilizzarli, perché poi perdono acqua di vegetazione, perdono gusto e perdono qualità. Guido da Brugherio. Buongiorno chef, volevo un consiglio per fare un buon risotto allo speck. Conviene mettere lo speck direttamente nel piatto oppure negli ultimi minuti aggiungerlo in cottura? Ma io farei una cosa, taglierei lo speck, lo stenderei su una placca da forno con carta da forno, farei essiccare totalmente, poi farei una polvere, frullerei tutto per ottenere una polvere e poi cospargerei questa polvere sul riso. Mi sembra perfetto. Vabbè, siamo arrivati al momento degli sporcamus. Com'è che si dice, Claudia? Come si dice sporcamus? Qui immagino azioni e immagini. Vai, vai. Per cui una, è semplice, una sfoglia che tu devi cucinare, te la fai dare dal tuo pasticcere, neanche la fai, vai dal tuo pasticcere di fiducia, sì. Fai quattro quadrati di sfoglia da 8 cm per 8, li metti su una placca da forno, li passi con un po' di tuorlo d'uovo, li righi appena appena con la forchetta, fai riposare una mezz'ora, dopodiché metti una griglia sopra, non appoggiata ma rialzata. Cuoci a 210 gradi la tua sfoglia, la levi, avrai un quadrato perfetto alto allo stesso modo che taglierai a metà e poi preparerai una crema pasticcera, anche questa se vuoi te la fai dare un po' dal tuo, certo, dal tuo pasticcero, se è una crema pasticcera con abbondante vaniglia, magari abbinata a una panna montata che è fresca, che dà cremosità, dà libidine, per cui farcirei la mia sfoglia con questa crema e poi ti vedrei così, ti ho immaginato, sì, intanto che mangiavi questo con le tue mani, questo con cubo, le mie manone, questo quadrato di pasta sfoglia con la crema, per cui ti sporcavi, mi sporco mousse tutto, sporcavo mousse, quindi è una sorta di gioco e quindi io ti ci vedevo quando scrivevo la ricetta, ma io mi ci vedo, cioè proprio non c'è alcun dubbio. Vabbè ragazzi, Puglia è stato lunga, bellissimo, una grande Puglia, guarda Claudia quanto è felice, qualità Ferronà, pur tu adesso cominci come Bobo Vieri, ormai Bobo non, ormai dice qualità in onda in qualsiasi momento, oppure se si collega con TG5, registra, brevetta. Va bene, adesso faccio, buona idea. Ciao.